Senza Frontiere 24, trasmissione Radio Wombat che parla appunto di internazionalismo e che va in onda tutti i lunedì alle 14.30 e mercoledì alle 17.30 e il giovedì sempre alle 14.30 in replica. La potete anche riascoltare in podcast andando sul sito di Radio Wombat alla pagina podcast, in cui tra l'altro oltre ai podcast di Senza Frontiere ci sono anche i podcast di tutte le altre trasmissioni di Radio Wombat. E stavolta parliamo di Catalogna, Sense Fronteras, proprio perché sabato 26 alle 21.30 c'è Stanis Emerson, via di Bellagio, ci sarà la presentazione del libro Lettere da Catalogna e siamo qui, stiamo parlando, in linea con uno degli autori, perché sono quattro mi sembrano gli autori. Esatto. Quattro. E gli chiediamo subito appunto di Lettere alla Catalogna e gli chiediamo diciamo come prima domanda il perché, dove, come è nato e perché lo scrivere questo libro. Ma intanto grazie dell'invito e un ringraziamento anche insomma alle ascoltatrici, gli ascoltatori della radio, nella speranza che questa chiacchierata possa essere per loro interessante e fornire degli spunti su un argomento che ultimamente non è di particolare attualità, quindi per riportare anche un po' l'attenzione su quello che è accaduto nel recente passato in Catalogna, e per cui appunto iniziamo con un minimo di ringraziamenti. In secondo luogo, venendo al libro, che dire, sicuramente c'è un elemento di carattere anche biografico. Io faccio parte insomma di una di quelle tante persone che ha avuto la possibilità, l'opportunità di fare delle esperienze insomma di militanza politica in Spagna nel suo percorso di crescita personale, come me anche gli altri redattori del libro, due dei quali peraltro abitano in questo momento, uno proprio a Barcellona e l'altro a Valencia, quindi sicuramente partivamo da una particolare sensibilità alle questioni che riguardano quei territori, per aver avuto noi per primi delle esperienze biografiche che ci hanno portato a stare lì. A questo si è sicuramente aggiunto la percezione che quello che stesse accadendo in Catalogna fosse particolarmente rilevante anche per noi, e che lo fosse anche al di là del fatto che noi in particolare avessimo avuto dei rapporti personali con quel territorio, e questo ci ha spinti sicuramente a provare a recuperare delle informazioni per portare avanti degli approfondimenti. Questo in particolare per quanto riguarda Marco e il sottoscritto, due dei redattori del libro, che vivendo qui in Italia abbiamo probabilmente sofferto di più degli altri due invece una sorta di distanza anche mediatica, no? Nei confronti, sì, certo, di quello che accadeva, e che ci sembrava addirittura in alcuni casi restituisse una distorsione rispetto a quello che stava accadendo in Catalogna, distorsione che ci sembrava molto pericolosa, soprattutto quando avevamo l'impressione che stesse contaminando addirittura gli ambienti, come dire, più militanti nei quali ci troviamo a muoverci noi, e generando molto spesso anche, almeno per noi, un vero e proprio disagio. Per cui fino a che ci siamo trovati a leggere i classici articoli liquidatori di tutto quello che avveniva a Barcellona e nel resto dei territori catalani sulle pagine del Corriere della Sera, sulle pagine della Repubblica, in fondo ci ritrovavamo, se vogliamo, nel normale svolgersi delle questioni giornalistico-mediatiche nel nostro paese. Quando invece però ricostruzioni molto simili abbiamo cominciato ad ascoltarle anche all'interno di spazi occupati, in diciamo ambienti più vicini, allora ci siamo cominciati a interrogare e forse abbiamo pensato potesse essere utile recuperare delle testimonianze e provare a dare un piccolo e umile, per carità, contributo a far sì che forse la visione di quello che stava accadendo diventasse un pochino più completa, più articolata e restituisse sicuramente la sfaccettatura di quello che poi avviene molto spesso quando si produce un movimento trasversale che ha connotazioni molto diverse e che però se viene letto soltanto con alcune lenti corre il rischio di essere molto ridotto, no? A schematismi che poi non ti permettono di capirlo. Quindi un libro scritto con testimonianze, con fonti, diciamo, di prima mano, ecco, non mediate dai media in questo caso, e che se, rispetto a quello anche hai detto, insomma, una sorta di introduzione che cerca di demistificare, diciamo, questa visione della questa lotta in Catalogna come una lotta tendente a mantenere i propri privilegi, come una lotta, diciamo, una secessione di ricchi, ecco. Guarda, sì, hai toccato un punto, insomma, molto importante. Diciamo che alcuni di noi un po' di più, altri magari meno, però proveniamo tutti da una area, corrente, sensibilità che ha sempre pensato fosse molto utile, come dire, recuperare le fonti dirette, no? Nel momento in cui si vuole approfondire una questione e per cui anche di fronte alle vicende catalane l'idea che ci è venuto più immediatamente in mente è stata quella di provare a recuperare delle interviste a militanti nel tentativo che esse per prime non fossero, come dire, la visione delle singole organizzazioni e delle vicende in corso, ma molto di più le opinioni di normali militanti, ecco, in alcuni casi nel libro, insomma, le interviste poi sono cinque, riguardano personaggi che hanno ruoli e posizioni molto diverse e all'interno comunque dell'ambito indipendentista, ma che era nostro interesse e nostro intento raccogliere proprio per mostrare quanta eterogeneità ci potesse essere all'interno di questo movimento e quanto fosse distante dalla realtà ridurlo a una lotta di borghesi ricchi per una maggiore autonomia dal governo centrale di Madrid, che è poi sostanzialmente quello che è stato fatto qui da noi, il tentativo peraltro anche a sinistra di assimilare il movimento catalano a esperienze di destra reazionarie e sciovinette come quelle della Lega, facendo, diciamo, un collegamento, producendo un automatismo di una superficialità disarmante e veramente assolutamente inaccettabile, no? Per cui proprio attraverso la strategia dell'intervista, quindi della fonte diretta e quindi soprattutto a militanti di base, il nostro intento era quello di far vedere come questa ricostruzione fosse lontana dall'essere corrispondente a quello che effettivamente si muoveva in Catalogna, indipendentemente poi magari dalle opinioni che ciascuno di noi può avere su alcuni aspetti di questa battaglia, sui dubbi anche che sono pur sempre legittimi, comunque sempre, no? E le contraddizioni, diciamo, cercando. Sì, no, continua, continua pure. No, nel senso, cercando anche di dimostrare come anche in passato movimenti di carattere estremamente radicale inevitabilmente abbiano dovuto affrontare tattiche, strategie, alleanze con settori diversi della società e per cui poi questa mitologia della rivoluzione pura e assoluta non esiste, no? Ed è molto più spesso una ricostruzione a posteriori che ci facciamo noi di quanto non corrisponda a quello che effettivamente avviene, accade, no? Questo non per voler dimostrare che in Catalogna si stesse costruendo uno Stato socialista e si stesse facendo una rivoluzione orientata alla costruzione di una Repubblica socialista, però sicuramente finalizzata a dimostrare come quello che stava accadendo quantomeno non potesse essere ridotto alle semplificazioni che ascoltavamo molto, molto spesso anche in banali chiacchierate e conversazioni con molti compagni militanti, no? Ci sembravano poi tutto sommato applicare schemi e dogmatismi molto poco utili a capire non solo la realtà catalana, ma forse anche proprio il mondo che ci circonda in questo momento storico, in questa fase di grande confusione, e che probabilmente ci dovrebbe spingere a leggere alcuni processi con maggiore apertura, o quantomeno non cercando di invocare ricette che probabilmente ci aiutano poco poi a sì, capire. Certamente. Sì, non si può utilizzare, diciamo, griglie interpretative di decenni fa, insomma, ecco, da questo punto di vista. Sai, il tema del nazionalismo, non c'è dubbio che per esempio in Italia è una discriminante molto forte, no? Indipendentemente da quello che in aree del nostro territorio può essere stato fatto rispetto a per esempio l'esperienza irlandese, l'esperienza basca, anche l'esperienza di alcuni territori insomma all'interno dello Stato francese, che nelle decadi ormai, no, hanno sicuramente guadagnato una certa credibilità e dimostrato il loro radicamento sociale e la legittimità delle loro battaglie, però non c'è dubbio che questo tema è un tema che a sinistra ci mette generalmente in grande difficoltà, no? Abbiamo la tendenza complessivamente a liquidare questo fenomeno come un fenomeno tendenzialmente di destra e di per sé reazionario, no? Non capendo che probabilmente la pluralità delle esperienze fa sì che anche questo tema sia un tema un po' più delicato, un po' più complesso. Sicuramente lo è nella cornice catalana, dove si intreccia con questioni di carattere sociale molto forti, molto, molto radicate nel proletariato e nelle classi subalterne catalane, e che ci deve fare anche pensare delle volte a uno sforzo che dobbiamo fare per non cadere poi in parallelismi che ci portano sicuramente fuori strada. Senti, hai parlato rispetto alle interviste di soggetti singoli, militanti però soggetti singoli, ma fanno parte o comunque parlano a nome di organizzazioni al basso, strutturate, e comunque può dare una sorta di carta d'identità, insomma di geografia delle situazioni più o meno organizzate che si sono battute o comunque si battono o comunque sono intervenute in questo processo che sta avendo luogo in Catalogna. Guarda, qui voglio insomma essere anche se vogliamo sincero, nel senso che il progetto di questo libro nasce con l'intenzione di fornire un materiale in tempi più rapidi possibili e poi per una serie di motivazioni che, come puoi intuire, non hanno spesso neanche a che fare con il libro stesso, ma che sono più legate alle esigenze editoriali della casa editrice, ma non lo dico in senso di malafede o di, no, ma semplicemente in coincidenze di uscite di altri libri, altri titoli, ha visto poi far passare un po' di tempo dal momento in cui è stato scritto al momento in cui è stato poi effettivamente pubblicato, quindi al suo interno in realtà abbiamo sistemato meno interviste di quante non ne avessimo raccolte in un primo momento, proprio per questa esigenza di velocità, no? Però tra le interviste che abbiamo raccolto abbiamo cercato di dare una sufficiente esaustività e rappresentatività, per cui sì, ci sono un paio di militanti che hanno dei rapporti più stretti, più interni, per esempio con la CUP, che è la coordinadora dell'Unità Popolare, cioè la formazione della sinistra antagonista catalana, che però ha partecipato negli ultimi anni appunto attraverso un percorso dal basso alle elezioni catalane, della quale per esempio fanno parte sia Ramon, che è il primo intervistato, che Aina Teia, che è una giovane attivista e che ultimamente ha anche ricevuto degli incarichi all'interno dell'organizzazione sul piano della politica internazionale. Però poi ci sono per esempio una giovane filosofa basca che ha a lungo vissuto a Barcellona, che è Yule Goicoechea, che recentemente ha pubblicato un libro che non è ancora tradotto in italiano, ma che si chiama La privatizzazione della democrazia in spagnolo, e Irene, che è una attivista di una cooperativa editoriale e gestisce una delle librerie più attive nel territorio, insomma, del quartiere di Gràcia di Barcellona, che è la città invisibile, e che racconta anche l'esperienza a partire da quel tessuto cooperativistico che ha in Catalogna delle radici molto antiche, senza il quale chiaramente non si capisce anche la struttura molto profonda che penetra, come dire, nelle attività anche economiche e organizza, no, vertebra proprio il tessuto produttivo del movimento indipendentista catalano da tantissime decadi, no? Quindi per farti un'idea, poi c'è la voce, ecco, di Aina, che in qualche modo riporta alle nuove generazioni di militanti che si sono formate durante il famoso 15M, no? Il 15 maggio e tutto il periodo in cui in Spagna, un po' in tutte le grandi città, ci fu questo grande movimento di resistenza alle politiche di austerità imposte dall'Unione Europea all'indomani della crisi economica in Spagna. Per cui, ecco, questo è un po' il quadro delle interviste che abbiamo cercato di raccogliere nel modo più veloce possibile, per fare in modo che in quel momento ci fosse appunto un materiale, un libro che nel suo piccolo riuscisse però un minimo a riportare un'informazione più adeguata a un pubblico italiano, soprattutto di militanti che forse avevano ancora più bisogno di ricevere un'informazione diversa da quella che arrivava dalla stampa nazionale. Ci sentiamo un pezzo musicale, una pausa musicale, un pezzo tratto dalla colonna sonora di Momedar Blues. Dopo il pezzo musicale, un'altra domanda a Giovanni, appunto uno degli autori di questo libro, Lettere dalla Catalogna, è un po', diciamo, un po' a più ampio raggio rispetto alla Spagna, e cioè se questo movimento nazionalista, o magari un'interpretazione più archiolata di identità territoriale, che coniuga appunto queste rivendicazioni con rivendicazioni sociali di maggior giustizia sociale, se diciamo questo movimento, questi fatti possono essere, hanno una sorta di parallelo con altri fatti, altri movimenti, altre lotte si sono svolte o che si svolgono in Spagna, svolgono in Spagna. Beh, diciamo che il rapporto fra la Catalogna e quindi il movimento indipendentista catalano e altri movimenti all'interno del territorio spagnolo è forte soprattutto nei confronti di quei movimenti più radicati e che hanno anche una dimensione storica più consolidata, no? Che sono quindi quello basco e soprattutto quello gallego, no? Che sono all'interno del territorio spagnolo i tre maggiori territori che hanno rivendicato storicamente una serie di forme di autonomia. E questo tipo di rapporti è sicuramente molto difficoltoso perché in Spagna la costruzione dello Stato post-franchista ha in qualche modo aggirato il tema del rapporto fra le singole autonomie e lo ha in qualche modo gestito in una forma di cooptazione che l'elite dominante spagnola è riuscita a costruire con le elite borghesi locali. Nel momento in cui però la crisi economica ha diciamo sferrato un colpo estremamente duro a questo ingranaggio, ecco che una vera e propria crisi istituzionale ha fatto ritornare estremamente d'attualità una questione che per lunghi anni invece si aveva avuto l'impressione fosse stata in qualche modo gestita e risolta, per cui ecco il risorgere in modo molto forte e violento, violento nel senso della partecipazione della grande, se pensiamo insomma anche da un punto di vista percentuale, il fenomeno dell'indipendentismo catalano assume dei contorni di massa in anni relativamente recenti a noi, no? Rispetto alle percentuali che sono sempre esistite nel País Basco, e questo è in buona parte dovuto alla crisi economica del 2008-2011. No? Per quanto riguarda l'Andalusia, dove non esiste un movimento nazionalistico in termini stretti, è interessante però rilevare, questo lo fa molto bene nella sua intervista Rolando D'Alessandro, che è uno dei maggiori esperti di politiche repressive in Spagna ed è uno degli animatori di una rete di collettivi antifascisti, esiste un sindacato di campesinos, che è il SAT, che è stata una delle organizzazioni fuori dalla cornice catalana a esprimere il più rapidamente possibile e in modo più determinato possibile la sua solidarietà. Questo a voler significare che in molti territori dello Stato spagnolo si è capito perfettamente come la battaglia contro la monarchia, la battaglia contro lo Stato franchista e quello che rimane ancora dello Stato franchista nello Stato spagnolo potesse chiaramente interessare non solo all'interno della Catalogna ma anche nel resto dello Stato per promuovere una vera e propria trasformazione che archivi definitivamente la parentesi della famosa transición che non ha saputo affatto risolvere il rapporto fra lo Stato centrale e i territori periferici dello Stato, ma che non ha saputo neanche risolvere la questione sociale, perché ha mantenuto comunque all'apice dello Stato spagnolo le stesse elite che lo governavano prima della morte di Franco, lasciando, come dire, nonostante insomma la crescita economica del paese, nonostante i cambiamenti che si sono prodotti, inalterati una serie di rapporti. In Andalusia questo i militanti del SAT lo sanno molto bene, dove l'elite anche socialista alto borghese ha mantenuto il controllo quasi esclusivo delle terre e dei territori, impedendo che ci fosse una vera e propria trasformazione nella gestione insomma dell'economia agricola di tutti quei territori. Quindi io credo che la questione nazionale e la questione sociale, ecco, analizzando per esempio proprio il territorio andaluso, si intreccino enormemente e stiano a dimostrare come una lettura esclusivamente schematica di quello che è avvenuto in Catalogna ci impedisce di vedere queste somiglianze e queste possibili alleanze. Questi sono alcuni temi che verranno ulteriormente articolati nella presentazione che avverrà, appunto, come detto a inizio trasmissione, la presentazione del libro al CSA Ernest Emerson sabato 26 alle 21:30, alcuni temi a cui andrà aggiunto, e questo è uno dei motivi principali che ha portato il Centro Sociale a organizzare questa presentazione, e cioè che cosa sta succedendo in Catalogna adesso, come si è evoluta la situazione da un anno a questa parte, e a cui il libro dà delle griglie interpretative per capire ancora meglio la situazione. Tra l'altro ci piace ricordare anche che tra gli autori del libro c'è anche Giuseppe Ponzio, che cura la corrispondenza da Valencia e più in generale dalla Spagna per Senza Frontiere. Ringraziamo Giovanni. Grazie dell'invito. E per Senza Frontiere ricordiamo ancora una volta gli orari: lunedì alle 14:30, mercoledì in replica alle 17:30 e giovedì sempre alle 14:30. Podcast alla pagina podcast di Radio Wombat, wombat.noblogs.org. Ciao ciao.